Mezzogiorno di fuoco. È quasi mezzogiorno, tira fuori le tue pistole. Tira fuori le tue pistole, maledetto. Fuoco prima io, prima del distintivo, prima che capissero che ero criminale davvero, prima del mio mistero, prima di perdermi in un miraggio, prima che fossi chiamato additato, fece con il nome di Paolo Villaggio. Rimango il saggio del gruppo, rimango quello che fa brutto, rimango pure quando mi avvisi e sti versi, rimango tra i miei persi, versi, terzi, di speranze messi. Che quello è successo, è quello che continuo a sperare, viaggiare in un mondo migliore. Salute signore, dottore, dottore, signore, signore, qual è la mia fine vicina e diretta, la mia stanza è perfetta. Cultura svago, musica, poesia, romantiche didascalie, memorie con l'unposca e così sia. L'organetto è il pianoforte che fa motivi validi, il synth che spara